want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Microphone check. Il suono della musica di DJ Telesforo. Ci siamo operativi, siamo pronti qui su Radio 24 per dare il via al soundcheck, la prova del suono di oggi. Buona domenica a tutti e buon pomeriggio da Gigi Telesforo, e vado subito a presentarvi senza perdere tempo, perché oggi abbiamo tantissimo swing nelle vene, un amico carissimo, un collega, un eccellente cantante, un formidabile didatte. Ve lo voglio presentare leggendovi la presentazione che viene fatta di questo eccellente vocalist su un sito che lo riguarda. Albert Hera, ecco, si pronuncia così con l'H aspirata, non è solo un cantante, è un narratore di suoni, suoni che evocano luoghi, profumi, sapori, danze e genti lontane, intrecciati in trame musicali che raccontano storie e passioni ancestrali, in cui ciascuno può riconoscersi al di là della parola. Vado a introdurvi il mio amico, un eccellente musicista, Albert Hera, con l'H aspirata. Albert, buon pomeriggio e benvenuto al Soundcheck. Ciao a tutti! Allora Albert, sono contentissimo di ritrovarti, di vederti in grandissima forma. Siamo riusciti a catturarti in una giornata di pausa, perché in questo periodo sei in giro per le masterclass, visto che ormai da tanti anni sei un didatta eccezionale, anche perché hai una scuola, ti sei formato con una scuola importante, che è quella di un signore che si chiama Bobby McFerrin. Yes. Oltre anche a Bobby McFerrin, vorrei puntualizzare anche Demetrio Stratos, perché sono i due che mi hanno dato la forza di proseguire e di credere ancora nella sperimentazione, ma non tanto una sperimentazione fatta di dimostrazione, ma un voler recuperare quella che è il senso di una sperimentazione passionale, una sperimentazione che non vuole dimostrare, ma una sperimentazione che vuole essere un punto di incontro tra artisti che pensano a un modo di fare musica e di fare arte, che penso che debba non essere un'arte dimostrativa, ma un'arte passionale. Questo è quello che penso. Quindi Demetrio è il primo in assoluto che, cioè, mi ha dato là. Ti sei avvicinato a un certo tipo di vocalità, sì, ascoltando i lavori di Demetrio, ma tu non l'hai conosciuto, perché no, tu appartieni a un'altra generazione. Giustamente no, però ho ascoltato, io sono rimasto affascinato dal suo documentario, quel documentario dove racconta la propria vita, e poi naturalmente c'è questo fantastico incontro con Bobby McFerrin, che mi ha dato la forza di comprendere la woman band e di cercare comunque anche una mia identità di solos, quindi di un punto naturalmente di cantante solista e one man band. Che cosa hanno in comune, se c'è un punto di contatto, fra Bobby McFerrin e Demetrio Stratos nella vocalità? Io penso che Demetrio e Bobby possono essere vicini nel comune denominatore, cioè il senso della non parola, cioè dare una forza ai fonemi e raggiungere molto e colpire molto l'ascoltatore su questo aspetto, perché noi comunque la parola ci dà un senso a tutto quello che ascoltiamo. Togliendo la parola, il suono vocale comincia a farci lavorare indietro nel tempo, a chissà che tempi, giustamente quando dicevi prima ancestrale, sicuramente un po' di Africa. Naturalmente in Demetrio non c'è, però c'è la voglia di essere vicini più sul suono che sulla parola, è quello che faccio anche. E oggi parliamo del suono, della voce, delle infinite possibilità che ha la vocalità contemporanea, quindi non soltanto l'esposizione melodica, ma qualcosa di più. E l'esempio ce lo ha dato ormai da tanti anni Bobby McFerrin, del quale parleremo in questa puntata e col quale vogliamo aprire questo nostro soundcheck, la prova del suono di oggi, con l'ultimo lavoro realizzato da Bobby McFerrin, che si intitola Spiritual, ovvero un tributo alla musica che cantava il papà di Bobby McFerrin, che è stato uno dei più grandi interpreti del genere. E qui Bobby McFerrin, in questo brano tradizionale che si intitola semplicemente Glory, incontra un'altra musicista eccellente, formidabile cantante come Esperanza Spalding. Apriamo il soundcheck con ospite il nostro Albert Hera, con Bobby McFerrin e Esperanza Spalding. Climbing, climbing through those lantern things, to leave my burden down. Every round goes high and higher. glory, glory, hallelujah. Cincinnati, the burning down, glory, glory, hallelujah. Cincinnati, my burden down. Intanto per presentare l'appuntamento di oggi parliamo di voce, parliamo delle infinite possibilità della vocalità contemporanea con un esperto, un mio amico, un eccellente cantante, un formidabile musicista e insegnante di canto e di musica, Albert Hera, che ha avuto la possibilità, come dicevamo, di studiare con Bobby McFerrin e di diventare anche uno dei vocalist di Bobby McFerrin, perché in questo album realizzato alcuni anni fa, esattamente nel 2010, per la produzione di un altro eccellente appassionato di vocalità che è Roger Treese, producer che lavora ormai da anni proprio sulla vocalità, Bobby McFerrin ha riunito per questo album intitolato Vocabularies alcuni fra i suoi colleghi preferiti, e fra questi c'è un italiano che è Albert Hera, e lo dico anche con un pizzico di invidia. Albert, guarda, è stata un'esperienza fantastica quella che mi ha veramente formato e mi ha avvicinato a Bobby anche nella sua conoscenza, cioè a 360 gradi, e vivere questa esperienza un mese a New York di registrazioni, perché comunque sono partito per fare un'incisione di questo e mi sono ritrovato a farne quattro, ok? E, beh, l'esperienza è stata fantastica, sicuramente rimarrà il punto di inizio realmente della mia ricerca, vi lo dico con tutto il cuore, perché da quel momento lì in poi ho preso forza su quella che è la mia strada, e da lì ho deciso proprio di inseguire non tanto lo stereotipo di Bobby, ma a seguire quello che il mio cuore dice della musica e portare avanti quello che poi è anche sono le circle song, che è il modo adesso di pensare una coralità e di vivermi l'insieme della mia voce assieme a altre persone. Ecco, parleremo di Circle Song, che è anche un esercizio per i giovani cantanti proprio per entrare nel mondo della vocalità contemporanea. Un album molto complesso, quello prodotto da Roger Treese nel 2010 per Bobby McFerrin. Addirittura quanti cantanti sono stati coinvolti nel progetto? Una cinquantina di voci meravigliose che arrivavano da tutte le parti del mondo. Infatti, proprio per questo motivo si intitola Vocabolari, perché vengono utilizzati fonemi e linguaggi del globo terracqueo. The Message è fantastico perché all'interno vengono inserite gran parte delle lingue del mondo, perfino il latino all'interno. Vorrei puntualizzare che questo CD è secondo me un'opera da ascoltare dall'inizio alla fine con una sequenzialità ben precisa, perché comunque anche come sono state posizionate le tracce hanno un suo perché all'interno di questo progetto. Un vero racconto fatto dalle voci guidate da Bobby McFerrin. Il brano è splendido, si intitola Say l'Adio, non sappiamo il significato, ma di praticamente l'Adio, che è un fonema che serve a dare vita a questa composizione eccezionale. Bobby McFerrin qui con ospite Albert Hera al soundcheck di Radio 24. Hey, hey, say l'adio, hey. Time taking words away. The melody will tell the story as we go along. Soundcheck, il suono della musica. Tema portante di questa prima parte del nostro soundcheck è la vocalità, perché abbiamo ospite Albert Hera, lo abbiamo già detto, un visionario della vocalità, un musicista e un cantante che io vedo e considero un po' come uno sciamano, perché quando ti vedo sul palco in azione con tutti i tuoi ragazzi, ti vedo sempre in preda all'estasi totale. Questo sì, non tengo nulla, cioè tutto quello che ho lo lascio senza inibizioni, quello che mi passa per la testa veramente di musicale e di vocale lo rilascio per quello che è. Poi naturalmente questa è la mia quotidianità, vivo così anche la mia giornata e cerco di essere me stesso proprio su queste radici, cioè quello che penso, quello che sento lo rilascio senza nessun problema. Parlando di Bobby McFerrin, mi hai ricordato dei Circle Song, possiamo possiamo spiegare che cos'è Circle Song, che tipo di disciplina e di applicazione? Beh, in questo caso la Circle Song è, nel mio caso è più un approccio didattico, perché grazie alla coralità improvvisata basata sui fonemi si riescono a equilibrare vari aspetti della didattica, per esempio la creatività, il modo di relazionarsi, le attenzioni, la volontà di condividere una progettualità che comunque non è scritta ma è molto molto libera, molto free. Le Circle Song quindi è un modo di improvvisare corale molto libero, basato sui fonemi, dove c'è molto il movimento. Sto aggiungendo nella mia didattica anche la body percussion, quindi l'utilizzo del corpo come elemento integrante del ritmo, perché comunque secondo me cantare è avere ritmo. Body percussion, e poi uno degli esponenti della body percussion che insegna anche alla Berklee School of Music di Boston è il nostro comune amico e collega Joey Blake. Joey Blake è uno dei primi seminari che ho fatto assieme a Rhiannon, assieme a David Worm, assieme a Roger Triss. Quando ho iniziato a frequentare le Circle Song, la prima cosa che ho fatto, mi sono informato, ho fatto seminari, ho cercato di comprendere quale fosse magari un punto di innovazione delle Circle Song. Quello che sto facendo adesso è nella ricerca delle neuroscienze, nella ricerca del proprio all'interno di varie malattie, come potrebbero essere l'Alzheimer, il diabete. Io penso che il canto possa essere molto forte nella ricerca proprio scientifica, e quello che sto spingendo è le Circle Song proprio in quell'area. Quindi la vocalità anche come terapia. Yes. Non tanto come terapia, come punto di grande forza di interesse e di benessere. Io penso che la parola terapia non venga inserita nell'arte. L'arte è di tutti e tutti stanno bene quando fanno arte. E la passione per la vocalità e per il canto l'ha ereditata da cotanto padre anche Taylor McFerrin, che tu hai conosciuto quando era un ragazzino. Sì, ma il senso di Taylor McFerrin è che si è distinto proprio in una grande forza che è la Human Beatbox, la contemporanea proprio intesa all'interno della discoteca, cioè il modo di fare musica per i giovani. Beh, il suo live è fantastico perché lui è attrezzato di piatti, CD, tastiere, microfoni, e cerca di relazionarsi in una musica sicuramente ad avanguardia, ma molto vicina all'espressione, proprio di stare vicino anche ai ragazzi giovani. Questa secondo me è l'intelligenza di Taylor. Purtroppo, come diciamo sempre, sta dietro a un padre, però io dico sempre che in questa situazione Taylor sta tirando fuori il meglio di se stesso all'interno di un'area specifica, che è quella della discoteca, per essere vicino ai giovani. Allora, noi stiamo aspettando il nuovo album di Taylor McFerrin, che sta per arrivare. Si possono ascoltare delle tracce su SoundCloud, però adesso lo apprezziamo in questa sua produzione realizzata per un vocalist compositore che si chiama Raj. E Taylor McFerrin, in questo brano intitolato Go With Love, è praticamente il batterista, utilizzando, come dicevi, la sua Human Beatbox precisissima, naturalmente da uno che si chiama McFerrin di cognome. Della Human Beatbox di Taylor McFerrin, figlio di Bobby McFerrin, per Raj, brano intitolato Go With Love, e fra pochissimo verrà pubblicato il nuovo album di Taylor McFerrin, molto interessante. Ho ascoltato le tracce su SoundCloud, quindi non vedo l'ora che venga pubblicato. Nostro ospite Albert Era per parlare di voce, per parlare del beneficio di utilizzare la voce come strumento quando si propongono le Circle Song. Non abbiamo descritto però fisicamente come avviene una Circle Song, velocemente, perché poi sì, ti faccio sentire un campione della nuova generazione. Allora, c'è un facilitatore che in realtà non è un direttore, espone una frase, ok, con un fonema in cui c'è un'articolazione, e sono disposti tutti in cerchio, naturalmente i coristi. Vengono lanciate le quattro sezioni principalmente, che vanno a formare un aspetto magari all'inizio omoritmico e poi polifonico. È tutto improvvisato e si possono raggiungere veramente dei livelli molto alti di improvvisazione e di relazione sull'improvvisazione. sensazione. Eh sì, poi diventa una sorta di mantra per i coristi, ma anche per il pubblico che assiste a questo spettacolo unico e improvvisato. Certo, certo. La durata mediamente di una circle song, quello che sto facendo nella mia ricerca, non deve superare i 6-7 minuti. E questa è una cosa molto importante, perché comunque il cambio di immagini, il cambio di relazione di suono per l'ascoltatore sono fondamentali. Io penso che uno spettacolo sia fatto anche di questo, di grandi cambiamenti, di immagini, di risoluzioni, di... Io utilizzo dei segnali particolari all'interno del circle song, siamo arrivati a circa 30 segnali in cui vengono distribuiti all'interno delle armonizzazioni che possono cambiare le immagini della circle song stessa. Eh sì, da seguire una circle song guidata da Albert Era, poi daremo gli appuntamenti qui in Italia. E voglio chiudere prima del GR, delle notizie, dell'informazione di Radio 24, presentandovi Jacob Collier, questo ragazzino, perché non avrà neanche 20 anni, inglese, che da solo a casa ne combina di tutti i colori, suona tutti gli strumenti, ma soprattutto è un cantante eccezionale, grande appassionato dei Take Six, che suoneremo per il nostro piacere più tardi, e lo potrete visionare su YouTube andando a cercare proprio questa versione di Don't You Worry About a Thing di Stevie Wonder, che qui ascoltiamo al soundcheck di Radio 24. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Sound check. Il suono della musica. And we'll never be sì, è il mio amico Albert Era, nostro ospite al soundcheck di Radio 24, meraviglioso, didatta, cantante, ogni tanto mi manda delle dritte, e questa dritta me l'hai data tu. I Pentatonics con Royals, brano di successo della giovanissima songwriter Lordi, che ha vinto qualsiasi tipo di premio nella passata stagione, ma nella versione vocalizzata dai Pentatonics. Chi sono i Pentatonics? Beh, è un gruppo americano che è dell'area mainstream, cioè il fatto di fare musica per i giovani, ok? Fare musica a cappella, e quindi questa è una cosa interessante. Certi magari snobbano questo modo di fare musica, invece secondo me è stato il punto cardine per portare, per esempio, quando sono venuti in tour in Italia, ha avvicinato moltissimi giovani alla comprensione della vocalità a cappella. A noi servono anche queste modalità, che naturalmente sono molto commerciali, ok? Però pensiamoci che comunque avvicinano i ragazzi a nuovi modi di fare musica, nuovi modi di comprensione della musica. Magari un giorno potranno ascoltare magari i Sovoso, faccio l'esempio, i Swingle Singers, però avvicinarli già con questo sul sistema secondo me è molto importante. Poi Pentatonics, è un gruppo comunque che ha un suo stile ben preciso. A me, come dico, a me piace moltissimo la cappella americana, ecco, la differenza magari di quella che potrebbe essere, cioè, quella che viene anche dalla scuola del gospel. Sì, molto libera, magari un po' meno precisa, diciamo, ok? Però molto libera, molto passionale, molto dentro la musica. Naturalmente poi abbiamo tutta l'area nord europea che è molto precisa, però queste sono naturalmente una mia scelta di ascolto, ecco, di piacere, ecco, nella musica a cappella. Noi ci siamo incontrati diverse volte, ma c'è stata un'occasione speciale per noi quando ci siamo ritrovati a Ravenna, sì, in quel meraviglioso putiferio di voci che si riunisce intorno alla figura di uno studioso della voce, un appassionato che è il professor Fussi a Ravenna, giusto? Beh, questo almeno a me, quel giorno che abbiamo duettato assieme a Marco Forgione sul palco, ti ricordi? Era fantastico, la gente si muoveva, la gente ascoltava la musica naturalmente e l'arte vocale sotto non solo un processo fisiologico, scientifico, ma anche artistico. È quello che il convegno di fognatria di Franco vuole sempre portare, sempre un'area artistica e un'area scientifica in comunione verso un unico obiettivo, lo stare insieme. Ecco, tu collabori con il professor Fussi ormai da diversi anni e presto ci saranno anche degli appuntamenti a Ravenna che ti riguardano. Vogliamo dare alcune date, no? La cosa importante è che partecipo al progetto di un corso di master universitario presso l'Università di Bologna, il corso di vocologia. Sarò a Ravenna per questo corso intensivo di una giornata il 14 giugno. Poi volevo puntualizzare un appuntamento che ci sarà a Milano per tutti gli appassionati del jazz. Naturalmente a Cappella presenterò Albertera Quintet, dove porteremo la crossover jazz in vocalità a Cappella, e saremo al Milano Jazz Club il 22 giugno. E poi naturalmente un mare di impegni vedo qui, e se vi piace la vocalità vi consiglio di seguire una masterclass, una circle song guidata dal nostro Albert Hera. Tutti gli appuntamenti li troverete nel suo sito alberthera.com. Allora andiamo alle voci splendide dei Take Six. Io quando ascoltai i Take Six la prima volta fu nell'87 e la band mi fu consigliata dal mio amico Ben Sidran. Mi disse: guarda, ascolta questi ragazzi, fra un po' uscirà il primo disco, resterai a bocca aperta. Ragazzi che vengono dal gospel, voci infinite, adesso sono delle star richiestissime, e qui li ascoltiamo con un'altra voce femminile, quella di Lala Hathaway, figlia di Donny Hathaway, in una composizione del padre meravigliosa intitolata Someday We'll All Be Free. Hang on to the world as it spins around. Sound check, il suono della musica. Questo è un signore che io aspetto da anni, Anthony Hamilton. Che voce, ragazzi, yeah, che musicalità. Un signore che viene dal gospel, anche lui ha molto Bill Withers nelle vene e anche nel modo di scrivere musica. Questa è una sua composizione intitolata Better Days. Ti consiglio, mio caro Albert, di comprare i dischi di Anthony Hamilton. Guarda, mi hai fatto ascoltare una traccia prima, cioè sicuramente oggi credo di scaricarmi qualcosa da iTunes. Naturalmente, ecco, da iTunes, quindi pagando sempre, regolarmente. Sempre, no? Sempre, sempre pagando, perché l'arte si paga. Allora, come va la musica in Italia? Perché tu lavori molto all'estero, quindi quando vai fuori torni sempre carico di energia. Qui in Italia che sta succedendo? Qui in Italia sta succedendo una cosa particolare, che secondo me stiamo in risalita. Noi dobbiamo credere a una risalita della musica, alla veridicità della musica e alla forza della musica. Dobbiamo sperare e crederci prima di tutto. E naturalmente, io sono molto più vicino ai 50 anni e quindi adesso faccio musica per mi piace e non mi interessa assolutamente né progetti commerciali o non commerciali. Io faccio musica perché mi alzo al mattino perché amo questa cosa e sono felice di farla. Ecco, tu ti alzi al mattino, sì, la prima cosa che fai dopo canto, aver fatto colazione, no, no, e dopo prima, aver... prima di canto prima, subito, canti subito, dopodiché ti sposti alla Fondazione Fossano sempre, musica, dove insegni, sì, che cosa succede in questa scuola? In questa scuola succede una magia, siamo 170 ragazzi che cantano, 12 ore di lezione tutti i giorni, il martedì e mercoledì, e poi si parte il giovedì per nuove frontiere in giro per l'Italia, non solo, questa è la didattica. Ti piace la vocalità di James Blake? Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, secondo me è l'artista inglese in questo momento, beh, tutti i giorni qualcosa di suo vado ad ascoltare, sicuramente ne sentiremo parlare anche qua in Italia. Eccolo allora, James Blake, vincitore del Mercury Prize quest'anno in Inghilterra, il brano è Retrograde, qui al Soundcheck di Radio 24. E termina qui l'incontro con il nostro amico Albert Era, al quale auguro tanta voce. Ah, grazie, grazie a tutti, grazie a Soundcheck, grazie a GG, grazie a Radio 24, buona musica, buona arte, ma tanta passione. Ti faccio un regalo per chiudere in bellezza questa prima parte, poi noi ritorniamo alle 19:15 con un altro eccellente musicista italiano, il sassofonista, arrangiatore e producer Raffaele Casarano, che ha firmato un contratto per la neo etichetta, nuova etichetta di Paolo Fresu, quindi ascolteremo altra ottima musica a partire dalle 19:15. Chiudiamo con delle voci meravigliose, qui rifanno completamente il lavoro di Mozart con le loro voci, ma stiamo parlando di campioni di vocalità, Swingle Singers, e questo è praticamente l'arrangiamento vocale fatto per il quartetto di archi e praticamente il K387 molto allegro di Mozart rifatto da Swingle Singers. Noi ci sentiamo più tardi, un abbraccio al grandissimo, ciao, Albert Era qui. Ciao a tutti, bye bye. Amici di Radio 24, grazie a tutti, a più tardi. Check one two, mic check one two, mic check one two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di GG Telesforo. Pronti per dare il via alla seconda parte del Soundcheck, ancora buona domenica a tutti voi in contatto con Radio 24, questa è la prova del suono, buonasera a tutti da GG Telesforo, e vado subito a salutare e a ringraziare per la partecipazione il nostro ospite, valente musicista della nuova generazione, nato nel 1981, salentino puro sangue, arriva con il suo sax contralto e la sua musica, un musicista che apprezzo ormai da diversi anni, è un musicista che ci porta un disco pubblicato qualche mese fa che si intitola Noè, firmato dal nostro Raffaele Casarano e i suoi Locomotive. Raffaele Casarano è nostro ospite, buonasera e benvenuto al Soundcheck di Radio 24. Ciao GG e grazie di avermi invitato e buonasera a tutti. Allora, tu sei molto impegnato non solo con la musica attivamente come musicista, ma sei molto impegnato con la musica anche come direttore artistico di un festival che porta il nome anche della tua band, ovvero Locomotive, una locomotiva di musica che mi ricorda un po' il famoso A-Train di Duke Ellington, il treno che portava gli appassionati di musica a Harlem a ascoltare i grandi concerti. Il Locomotive Jazz Festival, che dal tuo paesino d'origine Sabine si sposta quest'anno nella capitale del barocco, a Lecce, per 4 giorni, 4 giornate di grande musica, con un concept molto originale che dovrebbe essere, se non erro, il chiaroscuro. Che cosa significa? Beh, intanto il chiaroscuro è tutto ciò che appartiene, insomma, alla luce e al buio, no? di tutti i giorni, e in momenti anche probabilmente più lucenti e più, insomma, più bui, anche visto il periodo che corriamo, ci vengono dette sempre delle cose che appartengono a, come dire, a questo termine chiamato crisi, o insomma tutto va male, non c'è mai lavoro. Insomma, io credo poi che la musica abbia un ruolo fondamentale in questo periodo, forse come lo è stato da sempre. È quello di diffondere ottimismo, di diffondere luce, di diffondere comunque un po' di come dire, di quel senso di ok, ci voglio provare, ce la possiamo fare, perché poi alla fine è quello. E la musica, soprattutto poi in un festival di jazz dove avvengono determinati incontri, avvengono anche incontri di vari stili, e insomma è basato molto sull'incontro veramente tra persone. Credo che il chiaroscuro possa essere anche un momento di lucentezza finale che ci porterà lì, speriamo bene. E tra l'altro il festival quest'anno, che inizia il 31 di luglio per chiudersi in bellezza il 4 di agosto, si terrà in una location spettacolare lì a Lecce. Sì, si terrà in pieno proprio centro di Lecce, nell'anfiteatro romano, e in vari luoghi in tutta la città che quei 4 giorni appunto vivranno di varie performance durante il giorno e durante la notte. Tu sei salentino e quindi porti con te nel DNA il mare, la luce del Salento e il Negramaro. Il Negramaro non solo come vino, ma porti con te in questa produzione discografica un Negramaro per eccellenza. Esatto, il Negramaro Doc. Eh sì, una partecipazione inaspettata, devo dire, insomma, parliamo di Giuliano Sangiorgi, che è, insomma, per me un amico, oltre che, insomma, un grande professionista, lo conosciamo. E lui, quando ha sentito il brano che avevo registrato insieme al quartetto dell'Urucio del Mare, solo instrumental, quindi in realtà senza la voce, in pochi secondi ha spento le luci di casa, si è messo davanti al microfono e l'ha cantato one take. È uscita talmente bene che l'abbiamo lasciata. Beh, è un musicista preparato, è un musicista poliedrico, il nostro Sangiorgi, che ascoltiamo allora in questo brano intitolato, lo ripeto, non ho l'accento salentino, L'Urusciu del Mare, brano tratto da Raffaele Casarano and Locomotive. L'album si intitola Noè, qui al Soundcheck di Radio 24. Fa un certo effetto ascoltare la voce di Giuliano Sangiorgi con un impianto sonoro al quale non siamo abituati, no? Perché con Negramaro il suono più rock e potente della band supporta al meglio la sua voce, ma Giuliano ha fatto un lavoro eccezionale, lo dico a Raffaele Casarano, che è nostro ospite, che è anche il producer di questo album con i suoi Locomotive intitolato Noè, prodotto dalla neonata etichetta discografica diretta da Paolo Fresu. Allora Raffaele, io ti voglio far ascoltare qualcosa di nuovissimo, appena arrivato, un'anteprima anche per noi del Soundcheck. Questa band, questo trio si chiama Organ Explosions, e già si capisce di cosa stiamo parlando, perché è un organ trio, ma non è americano, non è inglese, non è italiano, ma è un trio tedesco che è guidato da questo organista molto bravo e intraprendente, si chiama Hansi Enzensberger, un nome impossibile per noi italiani, con Ludwig Klockner al basso e Manfred Middenberger alla batteria. Molto divertente questo album, lo ripeto, si chiama Organ Explosion, qui al Soundcheck di Radio 24. Thank you. Soundcheck. Il suono della musica. La storia del jazz riassunta qui al soundcheck di Radio 24 da due grandi maestri come Johnny Hodges, il contraltista della favolosa big band di Duke Ellington, che incontra Earl Fata Hines al pianoforte e gli altri eccellenti musicisti che rientrano in questo doppio CD The Complete Recordings con questi due veterani. E noi lo diciamo spesso, il jazz non dimentica, e noi non vogliamo dimenticare il suono bellissimo del contralto di Johnny Hodges, che io propongo anche per celebrare con questo brano intitolato Rosetta la presenza del nostro Raffaele Casarano, nostro ospite al soundcheck. Ha portato anche il suo contralto, purtroppo non credo che riusciremo ad ascoltare due note, ma abbiamo il tempo per godere ancora alcuni momenti tratti dal nuovo album che si intitola Noè. Album, come dicevo, pubblicato dalla neonata etichetta di Paolo Fresu, musicista fra i più quotati al mondo, musicista italiano sardo, e fra pochissimo anche tu ti sposterai in Sardegna per un appuntamento importante insieme a Paolo. Sì, proprio il 31 maggio a Cagliari ci sarà questo evento Sardegna Chi Ama, che è un evento proprio per aiutare gli alluvionati della Sardegna, e con un cast appunto di ospiti molto, molto importante. Paolo, quando ha detto se potevo essere lì tra loro, insomma, non ho esitato a dire di sì, ovviamente. Beh, certamente. Quando è iniziata la collaborazione con Paolo Fresu e come è nata la collaborazione discografica con la sua etichetta? Ma è nata intorno al 2005-2006, quando l'ho incontrato per caso in una stazione a Salazar a Parigi, e non ci conoscevamo, e mi sono avvicinato dicendogli: ma è il maestro Fresu? Ovviamente con la sua grande umiltà ha detto: ma chiamami pure Paolo. E ovviamente lì mi sono cadute le braccia a terra, perché non mi sembrava vero. Insomma, per me è stato sempre un punto di riferimento, e lo è tuttora. E quando registrai il primo disco l'ho invitato ad essere ospite, e lui ha accettato, e da lì poi man mano anche negli altri dischi è stato sempre presente in qualche modo, e adesso è divenuto il mio produttore. Insomma, ne sono veramente fiero di questa cosa. Beh, complimenti, perché avere come producer un eccellente musicista è importantissimo, e tra l'altro due orecchie così buone aiutano anche non solo nella scelta del repertorio, nel missaggio, ma insomma in tutte quelle fasi che riguardano proprio la produzione di un disco. Album che hai realizzato con la partecipazione di ottimi musicisti della nuova generazione, ce li vuoi presentare? Sì, sono i musicisti con i quali collaboro da sempre, sono tutti pugliesi, ma non lo dico per campanilismo, per carità. Sono Mirko Signorile al pianoforte, Marco Bardoscia al contrabbasso e Marcello Nisi alla batteria. Come mai la Puglia è così jazz? Ma ormai da anni. Ma io dico sempre una cosa, GG, forse è la disperazione che crea l'intenzione. Il jazz è sempre stata una musica di libertà, o almeno io l'ho sempre vista così, no? Una musica che non ha, come dire, troppi schemi di superiorità, o insomma qualcuno che ti dice cosa devi fare o meno. Credo che il Sud abbia bisogno anche di una curiosità in più, e probabilmente questo l'ha ritrovato nell'arte. Tutta la curiosità musicale di Raffaele Casarano condensata in questo brano intitolato Gaia, un brano che è stato scritto dal contrabbassista Marco Bardoscia, che apprezziamo qui al soundcheck di Radio 24. Gaia. Thank you. Soundcheck, il suono della musica. I'm going to Kansas City. Way of loving there, and I'm gonna get me some Casey. È un bluesacchione, non deve mai mancare al soundcheck, brano intitolato Kansas City per la voce inimitabile di un veterano come Mark Murphy. Allora era uno dei cantanti di riferimento della nuova scena jazz, ma vi sto parlando del 1958, data di pubblicazione di questo album splendido intitolato Hip Parade per Mark Murphy qui al soundcheck di Radio 24. Abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione per salutare il nostro Raffaele Casarà e per ricordarvi che se volete trascorrere un bel periodo di vacanza la prossima estate in compagnia di ottima musica, vi consiglio di visitare Lecce, città splendida con un mare meraviglioso, con tutte le località dove tra l'altro si mangia anche benissimo. Quindi dal 31 luglio al 4 di agosto ci vediamo a Lecce per fare mare, vacanza e ascoltare ottima musica con il Locomotive Jazz Festival. Perché Locomotive? E Locomotive intanto era, non sapevo come chiamare il quartetto mio all'epoca, perché mi sembrava troppo megalomane dire Raffaele Casarano Quartet. Ho detto Locomotive Quartet. L'anno dopo abbiamo messo su una piccola rassegna chiamata Locomotive Jazz Festival. Questo nel tuo paese, non a Lecce? No, nel mio paese, a Sogliano. E così è rimasto Locomotive. In realtà, come tutte le cose che accadono per caso, questo treno continua a fare tappa, a incontrare persone casualmente, ma persone molto belle come te. Grazie, comunque una bella soddisfazione spostare un festival così carino, così ben organizzato, organizzato con la passione e l'entusiasmo giusto in una città come Lecce, che tra l'altro quest'anno rischia di diventare un punto di riferimento per la cultura europea. Sì, beh, speriamo bene e speriamo che effettivamente Lecce Capitale della Cultura 2019 possa in qualche modo anche quest'anno superare l'altro step. Vediamo, insomma, di concorrenti in Italia ce ne sono tantissimi e abbastanza forti, però. Ma bisogna crederci, no? Perché la cultura in Italia c'è e che bisogna alimentarla, sono le persone che la fanno. Assolutamente, sono le persone che la fanno, condivido esattamente, non c'è bisogno di più coraggio, di più curiosità, ritorno a dire, ma più coraggio per la cultura. Raffaele, io ti ringrazio per la partecipazione, grazie tantissimo, complimenti per il disco, salutaci Paolo Fresu, saluta tutti i musicisti dei tuoi Locomotive e quindi noi ci rivediamo a Lecce la prossima estate, magari per qualche bella giornata di vacanza insieme, e intanto presentaci il brano col quale chiudiamo questo appuntamento del Soundcheck, brano che tu hai dedicato alle donne. Sì, intanto hai detto che verrai a Locomotive quest'estate, quindi lo prendiamo come veramente una cosa vera. Sì, basta trovare la stanza perché lì è pienissimo sempre d'estate. Ma intanto sarai sul palco, quindi voglio dire, poi ne parliamo. Okay, va bene, ne parliamo dopo. Sì, allora, Woman's Drive è un pezzo dedicato proprio, è un inno dedicato contro la violenza alle donne, per cui l'ho scritto veramente di getto. C'è un certo punto, c'è il coro dei maschietti che proprio canta inneggiando al dire no alla violenza alle donne. Grazie a Raffaele Casarano, grazie a tutti voi, vi lascio con Woman's Drive da Noè per Raffaele Casarano e Locomotive. Noi ci risentiamo sabato prossimo alla solita ora intorno alle 15:30. Buona serata e buona musica da Gegè Telesforo.